2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 19 settembre 2009. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024 e radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro servizio internet, il servizio podcast in modo particolare, ma ci sono anche altre possibilità per scaricare direttamente il nostro file. Ma come dicevo, il servizio podcast è sicuramente una comodità molto interessante perché vi permette di aggiornare settimana dopo settimana il file della nostra trasmissione. Provateci, ci sono tanti software, ad esempio iTunes, che è una piattaforma che si sta espandendo e si sta anche imponendo come servizio, oltre che di vendita di brani musicali, anche come erogatore di podcast. In questa puntata ci occuperemo dell'evoluzione dei contenuti digitali in Italia. Ci sono alcuni dati recenti. Adesso alcune notizie della settimana. Partiamo da Google. Ci sono sempre moltissime notizie che riguardano Google. Pochi giorni fa ha lanciato un nuovo servizio in via sperimentale che si chiama Fast Flip. Si tratta di una piattaforma grafica e testuale, per ora attiva solo negli Stati Uniti, potete comunque vederla anche dall'Italia, ma il servizio punta per il momento a notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Questa piattaforma permette di sfogliare le pagine dei giornali su internet come, dice Google, come se si avessero tra le mani, si fa per dire, insomma. Questo è il vantaggio principale per i lettori, mentre la cosa interessante per gli editori è che Fast Flip permetterà di condividere i ricavi pubblicitari derivanti dalla pubblicazione di notizie online. E questa è sicuramente un'evoluzione tecnologica dei laboratori di Google, ma anche, diciamo, strategicamente una mossa conciliante nei confronti degli editori, che avevano più volte accusato Google di utilizzare le notizie di altri senza pagarle. Sapete che c'è un servizio che si chiama Google News. C'è chi dice che Google News sia un vantaggio per gli editori perché porta traffico sui loro siti, ma queste discussioni le lasciamo agli esperti di strategie editoriali. Beh, insomma, fatto sta che anche in Italia gli editori si sono lamentati sul caso. L'antitrust italiana ha aperto un'istruttoria per verificare una possibile posizione dominante di Google News, e questa settimana il presidente dell'antitrust, Antonio Catricalà, ha detto di augurarsi che Google avvii una trattativa con gli editori italiani, come sta avvenendo negli Stati Uniti, tutto ciò per concordare una contropartita appunto per l'utilizzo delle notizie. E chissà che la tecnologia e l'evoluzione di questo mondo sia più veloce di un possibile accordo, cioè che l'arrivo di Fast Flip sposti l'attenzione su questo nuovo servizio e quindi si attivi una sorta di collaborazione con gli editori, che forse rende quasi inutile questa istruttoria anche un eventuale accordo sul classico Google News. Vedremo come si evolverà la situazione. Tra l'altro, da segnalare, anche se questa è un'altra notizia ben nota, comunque tra Google e gli editori, ma gli editori di libri in questo caso, c'è un braccio di ferro attivo per il controverso progetto Google Books. Da 4 anni Google sta digitalizzando, scannerizzando milioni di libri in giro un po' per tutte le biblioteche del pianeta. Siamo arrivati a circa 10 milioni di libri. Di questo, perché questo è un tema sicuramente molto interessante, parleremo nelle prossime settimane in attesa di una sentenza della Corte Suprema americana proprio su questo caso, attesa per il 7 di ottobre. Un'altra notizia che riguarda Google: è disponibile da pochi giorni una nuova versione del browser web, quindi il programma per navigare su internet, Chrome, mentre una versione per gli utenti Mac sarà pronta nel giro di alcuni mesi, alcuni dicono entro la fine dell'anno. Google ha detto di puntare al raddoppio della propria quota di mercato nel segmento dei programmi per la navigazione sul web, una fetta di mercato che per ora è ferma ad un misero 2,8%. Google è normalmente abituato ad altri numeri. Questo è un mercato, come sappiamo, dominato ancora da Internet Explorer, ma dove soprattutto Firefox cresce a ritmi molto interessanti. Negli ultimi anni Internet Explorer ha perso qualche quota di mercato. La Commissione europea, e qua parliamo di banda larga, ha rivelato le proprie linee guida su come i fondi pubblici dovrebbero essere usati per aiutare le aziende a realizzare linee veloci in banda larga, aiutando i paesi dell'Unione europea a beneficiare delle nuove tecnologie. In base a queste nuove norme dovrebbe essere più facile, più semplice ottenere un aiuto dallo Stato per progetti nelle cosiddette aree grigie dove l'infrastruttura di banda larga non esiste. Naturalmente i primi a beneficiare di questo snellimento delle procedure dovrebbero essere gli operatori di telecomunicazioni, ma in definitiva poi anche i cittadini. L'esecutivo europeo, cioè la Commissione europea, intende fare di internet a banda larga un elemento importante del suo piano di ripresa economica per stimolare la crescita del blocco delle 27 nazioni e, pensate un po', spera di raggiungere il 100% di copertura di banda larga in tutta l'Unione europea entro il 2010. Sappiamo che è impossibile raggiungere il 100% di copertura in banda larga entro l'anno prossimo, soprattutto in Italia, dove la diffusione delle connessioni in banda larga è molto, molto lenta e soprattutto in alcune aree c'è un problema di qualità. E anche di qualità parleremo più tardi nella nostra puntata, perché è stata avviata tra l'autorità garante per le comunicazioni, quindi l'AGCOM, e la Fondazione Bordoni un progetto per cercare di capire qual è la qualità effettiva, concreta dei collegamenti che sono offerti ai clienti in Italia, e di questo parleremo più tardi. Adesso invece parliamo di una ricerca. Sapete che, forse alcuni sapranno, che esiste in Italia un osservatorio sui contenuti digitali. Lo hanno creato le associazioni che rappresentano le aziende che producono e gestiscono contenuti come la musica, i film o i libri. Le ricerche sono realizzate dalla Nielsen, che è un istituto di ricerca molto noto, molto autorevole, che cerca di descrivere come i consumatori utilizzano questi contenuti che oggi stanno diventando in larga parte digitali e sempre più vengono distribuiti anche attraverso internet. Chiaramente, se per la musica e il video, quindi per i film, il passaggio al digitale, quindi ad un mondo, come dicono alcuni esperti, liquido, le cose sono più mature, perché appunto per la musica in modo particolare, ma anche per il video stiamo parlando di una trasformazione che descriviamo già da parecchi anni. Questo è meno vero per i libri, anche se le cose si stanno muovendo molto rapidamente, come abbiamo detto recentemente in una puntata dedicata agli ebook. Se siete interessati a questo tema potete andarla a ritrovare nel nostro archivio. Allora, alcuni dati che arrivano da questa ricerca. In Italia ci sono 28 milioni di persone che utilizzano la rete, che in qualche modo si connettono ad internet, chi lo fa tutti i giorni, chi qualche volta alla settimana. Comunque, in generale, quelli che respirano l'aria della rete sono 28 milioni. Sono pochi? Sono molti? Beh, se confrontiamo questi dati con quelli degli altri paesi europei, vediamo che la diffusione di internet è, pensate, dell'88% in Olanda, di oltre il 70% in Germania, più del 75% addirittura per cento in Germania, e in Gran Bretagna supera il 60% in Francia. Qui in Italia fatichiamo a raggiungere il 50% e ci posizioniamo ai livelli della Grecia. Quindi, da questo punto di vista, altro che paese del G7 o del G8. Per non parlare, come dicevamo poco fa, della banda larga, la cui diffusione aumenta a ritmo molto lento, senza che, tra l'altro, questo è abbastanza triste, esista ancora un progetto concreto per costruire reti di nuova generazione. C'è un silenzio preoccupante della politica e questa è una grave responsabilità per il futuro del paese, ma questo l'abbiamo detto più volte, molti dei nostri esperti lo hanno sottolineato anche negli ultimi giorni. Dunque, questo è il quadro, potremmo dire, infrastrutturale, il quadro quantitativo nel quale ci muoviamo. Ma che cosa fanno gli italiani in rete? Quale utilizzo ne viene fatto di internet? Ne abbiamo parlato con Claudia Baroni di Nielsen, che ha curato la ricerca dell'osservatorio sui contenuti digitali. La diffusione di internet, siamo sicuramente indietro rispetto al resto dell'Europa, soprattutto quelli che sono gli heavy internet, cioè quelli che lo utilizzano tutti i giorni. Abbiamo ancora metà della popolazione che è assolutamente esclusa dall'utilizzo di internet e quelli che sono più esclusi, oltre a essere gli anziani, come è prevedibile, sono quelli che sono più lontani dal mondo del lavoro, quindi anche le casalinghe, quelle che non hanno la possibilità di entrare in contatto grazie anche all'attività lavorativa e la penetrazione minore comunque nel sud del paese. Quindi c'è, potremmo dire, una sorta di, oltre che di digital divide, geografico-culturale, un cultural divide, così si dice. Certo, proprio cultural divide è quello di cui la ricerca, su cui la ricerca è incentrata. Quello che infatti cerchiamo di stressare nella ricerca è proprio che non è l'utilizzo della tecnologia che porta a bassa cultura. C'è un diverso modo di utilizzare la tecnologia, c'è chi utilizza la tecnologia in modo costruttivo e quindi la tecnologia, internet in particolare, diventa spunto per arricchimento, diventa stimolo. Ci sono queste persone che sono più di 7 milioni che utilizzano la tecnologia magari anche facendo il peer-to-peer e quindi anche in modo illegale, ma poi il peer-to-peer diventa stimolo all'acquisto. E c'è una parte della popolazione che purtroppo è decisamente maggiore che utilizza internet in modo, come noi l'abbiamo definito, usa e getta, cioè non in modo costruttivo, quindi il peer-to-peer non è più stimolo ma è sostituzione rispetto all'acquisto. Ed è il problema che abbiamo sottolineato, non è la tecnologia, è un peggioramento complessivo della popolazione italiana che tende a diminuire il proprio livello culturale. Questo è evidente se andiamo a vedere i dati di lettura, la penetrazione di chi ha letto un libro e un solo libro, stiamo dicendo, in un anno è calata di 4 punti percentuali dal 2008 al 2009, che è un dato preoccupante. Nella ricerca ci sono molti dati che appunto potrebbero preoccupare, che sicuramente preoccupano i produttori e le associazioni che in qualche modo gestiscono i contenuti culturali, quindi parliamo di musica, di film, di libri, eccetera, eccetera. C'è anche qualche dato positivo, c'è anche qualche segnale positivo o i dati prevalenti sono quelli che preoccupano? Ci sono dei dati positivi perché a fronte di questo peggioramento culturale, utilizzo della tecnologia in questo modo, troviamo anche un aumento in questi 3 anni di chi percepisce il download, il peer-to-peer, come reato che dovrebbe essere arginato, quindi il diritto d'autore deve essere preservato. La crescita di questa percezione è un'indicazione di un cambiamento anche in questo senso. E altri segnali positivi vengono dal fatto che c'è un quarto della popolazione, popolazione internet, che sarebbe disposta a pagare per ottenere quello che attualmente è gratis, quindi sarebbe disposto a sottoscrivere un abbonamento per musica o film, questo ovviamente in cambio di un servizio che può essere di qualità, di catalogo, di un certo livello, però c'è questa propensione a valutare questa alternativa. E questa era la voce di Claudia Baroni di Nielsen, che ha curato la ricerca presentata ieri dall'Osservatorio sui contenuti digitali. Su internet esiste la ricerca completa, quindi potete scaricarla appunto dal sito dell'Osservatorio sui contenuti digitali. Metteremo poi un link anche nelle pagine di 2024 su www.radio24.it. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete scriverci: 2024@radio24.it. Questo è 2024, quindi un indirizzo molto semplice, come del resto tutti quelli dei nostri programmi, il nome del programma @radio24.it. Vi ricordo anche che la nostra puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast. Potete scaricare il file in maniera automatica grazie a software come ad esempio iTunes, che vi permette di aggiornare in maniera automatica, trasparente, settimana dopo settimana, il file MP3 della nostra trasmissione. Dunque, dicevamo che sono stati presentati i dati di questa ricerca dell'Osservatorio sui contenuti digitali. Crescono gli italiani che usano la rete, ma crescono anche coloro che ne fanno un uso superficiale. Alcuni dicono usa e getta, che non approfondiscono, che faticano a creare anche un mercato dei contenuti digitali. Ma che cosa ne pensano di questa realtà i rappresentanti dell'industria che produce i contenuti, oramai, come dicevamo, in larga parte digitali? La musica è sicuramente stata la prima a dover fare i conti con la rivoluzione di internet, che, lo sappiamo, sta lentamente distruggendo i business tradizionali e ne sta creando dei nuovi. Enzo Mazza è il presidente della FIMI, che rappresenta l'industria della musica italiana. Ma l'industria musicale è in un momento particolare, nel senso che sicuramente è quella che sta cogliendo le maggiori opportunità dall'evoluzione digitale, quindi tutte le sue declinazioni, quindi non solo più il download di brani musicali, che paradossalmente sta diventando un business tradizionale. Adesso c'è tutto il fenomeno del social network, il fenomeno dello streaming audio e streaming video, quindi 76%, dicevo, una ricerca recente, dei video su YouTube sono video delle maggiori case discografiche, quindi abbiamo tutto un fenomeno che si sta moltiplicando e che sta sicuramente aprendo nuove strade per anche dei ricavi che per ora sono ancora molto bassi. Però assistiamo effettivamente a uno sviluppo che sta trasformando completamente anche le imprese. Le imprese oggi hanno delle sezioni sempre più ampie, più specializzate su aree che fino a un anno e mezzo fa erano considerate, o erano addirittura sconosciute, considerate poco importanti o addirittura sconosciute. Ma adesso la profilazione e la costruzione, anzi, di profili di artisti su Facebook in collaborazione col proprio artista fatte le case discografiche è una delle attività principali. Un tempo, fino a uno, due, tre anni fa, il vostro primo problema era quello della pirateria. Si parlava prevalentemente di pirateria. Oggi come stanno le cose? Ma la pirateria rimane ovviamente uno degli aspetti più preoccupanti, perché è di fronte a un download di un brano legale, ne vengono scaricati 20 illegalmente, quindi è evidente che ci troviamo di fronte comunque a un problema ancora consistente. Però è anche vero che la risposta che è stata data con tutta questa serie di nuovi modelli che vengono messi a disposizione anche con dei partner importanti dall'industria, quindi il modello a pagamento, il modello free, il modello nel quale io comunque interagisco con l'etichetta musicale o con la piattaforma, quindi diventando addirittura parte anche della stessa distribuzione, stanno diventando degli aspetti che in qualche maniera sicuramente controbattono la pirateria. Oggi è un dato noto che dei nuovi accessi di banda larga che avvengono ogni giorno, se prima chi accedeva alla banda larga entrava subito nelle reti peer-to-peer per approvvigionarsi di musica, oggi uno su tre parte da una piattaforma legale, quindi vuol dire che comincia a esserci una consapevolezza che questa offerta esiste. C'è un problema di reperibilità di nuovi clienti, cioè chi oggi è su internet ed è interessato alla musica o va sul peer-to-peer o va sull'offerta legale, ma si fatica, cioè l'industria fatica a trovare nuovi clienti, facendo comunque fatica a spostare l'utilizzo del peer-to-peer. Sì, ci sono vari freni, diciamo che uno dei freni principali ovviamente è il rapporto con i mezzi di pagamento, perché è evidente che se un ragazzino, che è un target ideale per i brani musicali, ha di un certo genere, ma soprattutto dei singoli che vengono diffusi online, ha poi dei problemi di mezzi di pagamento, perché non ha una carta di credito o una scheda prepagata per poter pagare il contenuto, ovvio che sceglie anche per quel motivo delle piattaforme dove è tutto gratis. E la soluzione è quella di trovare delle formule che possano, anche in condivisione con i carrier, sia mobili sia fissi, la soluzione di portare il pagamento all'interno di, per esempio, l'acquisto dell'abbonamento della banda larga o l'abbonamento alla telefonia mobile, in cui incluso c'è un tot di download o il limitato o basato su alcuni titoli. Questa dunque la visione di chi si occupa di musica. Adesso parliamo del cinema. I produttori nazionali stanno lavorando ad una piattaforma online per la distribuzione e la vendita di film via internet. Esistono, come abbiamo detto, come abbiamo appena detto, delle piattaforme già consolidate per la vendita di brani musicali, quindi esiste un mercato legale per la musica online. Faticano invece ad affermarsi delle piattaforme per i film. Esiste Filmes Now, di cui abbiamo tra l'altro parlato lo scorso anno, abbiamo ospitato il creatore e chi guida questo sito internet che offre film online. Dicevo che i produttori nazionali stanno lavorando ad una piattaforma per la distribuzione e la vendita di film, ma in questo caso il mercato fatica a decollare e il ruolo della pirateria è ancora molto, molto pesante. Questo per quanto riguarda, diciamo, l'online. Per quanto riguarda invece la vendita, la filiera dei supporti fisici come i DVD, in questo caso i produttori e i distributori puntano soprattutto sul Blu-ray e quindi sull'alta definizione. Un business che quindi non pensa di internet come piattaforma di distribuzione. Sentiamo Davide Rossi, presidente di Univideo. Internet è vissuto come un contenitore low cost e purtroppo l'alta definizione invece costa molto realizzarla, costa molto veicolarla, costa molto distribuirla, e quindi in questo momento l'unico meccanismo economico che può reggere per l'alta definizione, o meglio ancora per il 3D, le due nuove frontiere che noi stiamo sperimentando, non potrà che essere un'offerta a pagamento anche a prezzi abbastanza sostenuti. Ecco, la qualità costa e si spera di trovare qualcuno pronto a pagare per quella qualità. E questa è la posizione di chi distribuisce supporti fisici, che naturalmente guarda ad internet come una possibile minaccia del business. Ma di cinema, dicevo, ne parleremo in una delle prossime puntate, perché la situazione è così complessa che merita di essere approfondita. Adesso invece parliamo di libri, visto che se ne parla molto in questi ultimi tempi per vari motivi. Che cosa sta succedendo ai libri? Fernando Folini guida la commissione per le editoria digitale dell'Associazione Italiana Editori. Effettivamente ci può essere utile osservare o aver osservato quello che è avvenuto con la musica, con i film, ma utile limitatamente, perché il libro come prodotto culturale è molto più complesso da gestire. Con questa annotazione, con questa premessa, comunque quello che c'è da dire è che gli editori si trovano di fronte a un duplice livello di problemi. Un livello inerente strettamente il libro, la sua trasformazione, il modo di fare editoria, quindi molto vicino a quello che è la loro pratica, ed è una specie di nodo gordiano costituito da una serie infinita di sfide e opportunità. E un secondo livello invece sovrastante, che è un grandissimo problema di sistema che coinvolge tutto il paese. Allora, vediamo di chiarire velocemente questi due livelli. A livello, diciamo, più strettamente editoriale, c'è una sfida innanzitutto tecnologica, perché la filiera che ha sempre portato a carta, stampa, legature, distribuzione di un oggetto fisico si va trasformando con il digitale e di conseguenza si va verso la produzione di un qualche cosa che è molto più virtuale, ma che deve rispondere a degli standard che di fatto non sono ancora stati consolidati in modo univoco sul mercato, perché sì, alcuni si stanno affermando. Da una parte il PDF come copia digitale della carta, e da quell'altra i formati EPUB e e-reader, che sono quelli che consentono il reflowing, cioè la reimpaginazione su un device di lettura che potrebbe essere uno smartphone qualunque, o il Kindle di Amazon o l'e-reader di Sony. C'è poi un discorso ancora più importante che riguarda il meccanismo di business, il modello di business. Seguiteci nel pomeriggio del sabato di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Cerchiamo di rispondere a tutte le mail che ci arrivano, alcune sono ancora in attesa, ma arriveranno le risposte nei prossimi giorni. Stiamo parlando dei contenuti digitali, dell'evoluzione, adesso parliamo di libri, continuiamo a sentire Fernando Folini, che è il responsabile della commissione per l'editoria digitale dell'Associazione Italiana Editori. Una volta tutte queste commissioni, fino a qualche anno fa, erano soprattutto laboratori per cercare di capire che cosa stava succedendo. Adesso stanno diventando sempre più importanti, cioè i responsabili del settore digitale all'interno delle associazioni, all'interno delle aziende, stanno diventando sempre più importanti, segni dei tempi che stanno cambiando e dovrebbero cambiare anche più rapidamente, ma siamo un paese un po' lento al cambiamento. Dunque, dicevo, adesso continuiamo a sentire la Folini con queste considerazioni sui libri e poi parleremo di altre cose, ci sposteremo su altri territori, parleremo di alcune offerte nuove, interessanti, che sono state presentate da Tiscali in settimana, e sarà con noi Renato Soro, che come sapete da maggio è tornato in Tiscali, è l'amministratore delegato di questa azienda che riserva sempre alcune sorprese interessanti nell'evoluzione della rete internet e anche delle offerte italiane della rete internet. Continuiamo a parlare di contenuti digitali, Fernando Folini. A livello, diciamo, più strettamente editoriale, c'è una sfida innanzitutto tecnologica, perché la filiera che ha sempre portato a carta, stampa, legature, distribuzione di un oggetto fisico, si va trasformando con il digitale e di conseguenza si va verso la produzione di un qualche cosa che è molto più virtuale, ma che deve rispondere a degli standard che di fatto non sono ancora stati consolidati in modo univoco sul mercato, perché sì, alcuni si stanno affermando, da una parte il PDF come copia digitale della carta, e da quell'altra i formati EPUB e e-reader, che sono quelli che consentono il reflowing, cioè la reimpaginazione su un device di lettura che potrebbe essere uno smartphone qualunque o il Kindle di Amazon o l'e-reader di Sony. C'è poi un discorso ancora più importante che riguarda il meccanismo di business, il modello di business, perché in questa ventata di tutto subito e gratis che ha pervaso negli ultimi anni, in particolare la rete, si fa una grande richiesta di avere contenuti gratuiti, e questo diciamo che non può essere il modello di business per antonomasia, perché gratis e business non vanno d'accordo. Quindi però questo significa anche che si va a deprimere la filiera editoriale, si va a deprimere la catena del valore che comincia dall'autore che scrive dei testi o che produce comunque dei contenuti. È vero, d'altro canto, che ci sono delle compressioni di costi interessanti date dal digitale, perché non esiste più la carta, la stampa, la legatura e la distribuzione di un oggetto fisico, quindi si possono fare delle economie. Però il connubio fra l'attesa di tutto gratis e la compressione visibile sotto gli occhi di tutti dei costi sta portando a delle esasperazioni, per cui io compro già oggi regolarmente sul mercato internazionale degli ebook che costano $1, $1.50, $2. E francamente, come editore italiano, mi domando come posso fare business a questi prezzi al pubblico se poi magari vendo 1000 copie di un libro specializzato. Cioè, non è possibile, non garantisce nulla, neanche il diritto d'autore. Sovrastante tutto questo, c'è invece un grosso problema di sistema, è quello che è stato evidenziato dalla ricerca dell'osservatorio, e che non è cosa nuova, cioè è la conferma di una tendenza che già negli anni precedenti si era manifestata. Cioè si fa un grande uso delle tecnologie, nel senso di acquisto di oggetti tecnologici, acquisto di gadget. Non se ne fa un uso per sviluppare, produrre e soprattutto fruire dei contenuti complessi, culturali, importanti. E questo è un grosso guaio per il paese, perché il dato che già ci accompagna da diversi anni è che noi produciamo e vendiamo in Italia una quantità di romanzi e libri di fiction assolutamente identica come ordine di grandezza a quelli della Germania. Ma per esempio nel comparto dei libri scientifici, tecnici, medici, quello che gli addetti ai lavori chiamano STM, il valore è un quinto. Allora, questo cosa vuol dire? Che se noi consumiamo un quinto di cultura specializzata proprio quello che porta verso l'innovazione, dà ragione dell'innovazione, insegna a innovare, chiaramente ci troviamo di fronte a un paese che sta perdendo velocissimamente competitività sul mercato internazionale nei confronti dell'innovazione. E questo è una cosa che non può essere recuperata da un solo attore, cioè non possiamo dire semplicemente vabbè, è colpa della famiglia che non induce all'amore per la lettura, oppure è colpa della scuola, oppure gli editori dovrebbero fare meglio il loro mestiere. Tutte cose anche vere, ma è un problema di sistema e quindi va affrontato da tutti gli attori mettendo insieme i loro sforzi. Se noi guardiamo a quello che è successo nella musica e guardiamo all'oggi del mercato della musica, possiamo dire che c'è già un ricco mercato fatto da persone che vanno online e acquistano musica. Le cose non sono così chiare per il cinema, perché ancora chi acquista cinema online è un numero di persone molto molto limitato. Direi che non esiste ancora un mercato di libri digitali intesi come file che poi vengono letti sul computer oppure sugli ebook. Lei pensa che questo sarà un mercato entro pochi anni o dovremmo aspettare molti anni? Ma io penso che questo mercato, come sempre avviene in questo tipo di innovazione tecnologica, il passato ce l'ha dimostrato, partirà in modo improvviso. Con l'avanzare della digital generation cambierà tutto. A livello di scuola oggi vediamo dei grossi freni sul digitale dovuti a una classe di insegnanti che ha una certa età, certe abitudini, che di conseguenza non è pronta ad accompagnare degli alunni che sono pieni di gadget digitali che potrebbero utilizzare anche per scopi culturali e scolastici. Appena cambiano le cose, cambia tutto improvvisamente. E quindi questa è un'ulteriore sfida per gli editori, perché partire troppo presto significa bruciare risorse inutilmente, non essere pronti al momento giusto significherà perdere nella competizione ogni propria chance. E così chiudiamo questa pagina, ricca pagina dedicata ai contenuti digitali, per cercare di capire, ma soprattutto per vedere quanto le aziende, le imprese che spesso hanno le idee chiare perché sono piene di uffici studi, di marketing che studiano il mercato, in questo caso le idee non sono chiarissime per capire come fare business nel futuro della rete e nel futuro digitale. Dicevo, cambiamo argomento, parliamo di convergenza. Da un po' di tempo non veniva citata questa parola. Tiscali ha presentato questa settimana un paio di offerte, una in modo particolare che si chiama Tiscali Unica, e la parola unica ci fa tornare alla mente quella famosa convergenza di cui si parlava fino a qualche tempo fa. All'interno di questa offerta c'è naturalmente la DSL, che è un po' il nucleo di tutto, il telefono che viene di conseguenza, ma anche la telefonia mobile. Sapete che Tiscali, alcuni di voi forse sanno che Tiscali è uno dei tanti operatori mobili virtuali che esistono in Italia, cioè operatori che non hanno una propria infrastruttura di rete, quindi non hanno le antenne così come hanno TIM, Vodafone, Wind e Tre, ma che sfruttano le antenne di altri per erogare un servizio che prendono a noleggio da altri, diciamo così. Tiscali quindi ha presentato questa offerta. All'interno di questa offerta c'è anche una novità che riguarda il connubio tra il Voice over IP, tecnologia di cui abbiamo parlato tante volte, e il Wi-Fi. L'offerta si chiama Wi-Phone. Di questo parleremo tra poco con Renato Soro, che come dicevo è tornato da qualche mese alla guida di Tiscali e quindi ci illustrerà anche queste novità, che sono interessanti soprattutto dal punto di vista tecnologico, perché un grande operatore italiano mette insieme in un pacchetto cose che forse a pezzi e pezzettini si trovano in rete, si trovano software che ci permettono di fare più o meno le stesse cose con i nostri telefonini, ma non esiste ancora un'offerta pensata e integrata in questo modo. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Adesso parliamo di una evoluzione tecnologica, ma naturalmente anche commerciale, perché arriva da una grande azienda di telecomunicazioni italiani. Buongiorno e benvenuto a Renato Soro, amministratore delegato di Tiscali. Grazie mille. Grazie mille. Voi siete, questo non so quanti lo sappiano, siete anche un operatore mobile virtuale, quindi esistono le SIM di Tiscali e siete un operatore che offre anche servizi di telefonia mobile. Tiscali è conosciuto molto per i servizi invece legati alla DSL, al mondo fisso. Voi avete presentato un'offerta che torna a parlare di convergenza. Qualche tempo fa si era cominciato a parlare di convergenza, poi le cose si erano un po' fermate. Sembra quasi che si stia riprendendo quel filo che avevamo abbandonato. Sì, direi proprio così. Tiscali da qualche mese ha sperimentato un'attività di operatore virtuale. Ci siamo chiesti però se è particolarmente importante per gli utenti italiani avere un altro operatore virtuale, qual è il valore aggiunto che possiamo offrire, per quale motivo uno dovrebbe scegliere Tiscali invece che un altro. E quindi era necessario, insomma, offrire un'offerta che avesse il segno della novità, che potesse offrire qualcosa di più, una ragione per scegliere Tiscali invece di altri. E credo che abbiamo trovato la proposta giusta, che va verso la convergenza dei servizi fissi, di rete fissa e di rete mobile. Spesso utilizziamo la rete mobile laddove non è strettamente necessario. Finiamo per fare delle telefonate utilizzando la rete mobile anche laddove potrebbe essere facilmente utilizzata la rete fissa. Attraverso il Wi-Fi e la possibilità che oggi hanno quasi tutti i nuovi telefoni di collegarsi anche alla rete Wi-Fi, c'è la possibilità di coprire la micromobilità dentro casa o dentro l'ufficio con la rete Wi-Fi, da lì entrare nella rete fissa e fare delle telefonate a un ventesimo del costo che altrimenti si farebbero con la rete mobile. Quindi voi dite, visto che molte telefonate vengono fatte all'interno degli uffici o all'interno delle case, ma spesso si utilizza il telefonino, perché non far transitare quella voce sulla rete fissa? È proprio così, è notorio, ci sono state diverse statistiche che oltre il 50% delle telefonate che si fanno da rete mobile nascono e muoiono indoor, cioè dentro casa o dentro un ufficio. Quindi finiamo per pagare un premio di mobilità laddove la mobilità non è necessaria. Le tecnologie ci sono ormai anche da tempo, sono forse ancora un pochino complesse e i pezzi sono separati e distanti a volte l'uno dall'altro. Tiscali che cosa ha fatto? Ha costruito un software che rende tutto questo molto semplice, automatico. Il cellulare di tutti i giorni che utilizziamo per parlare in mobilità, per parlare in automobile, per parlare quando camminiamo per strada, quando arriva a casa riconosce automaticamente la nostra rete wireless e continuiamo a utilizzare la rubrica, ma le telefonate diventano da rete fissa e gratuite, quindi a seconda degli abbonamenti. Lo stesso quando arriviamo in ufficio, oppure quando arriviamo a casa di un amico, o quando arriviamo in un ristorante che ha la rete Wi-Fi libera. Allora, qua sicuramente c'è una cosa interessante. Sappiamo che in ambito pubblico il Wi-Fi è vincolato, è bloccato, lo sviluppo è sicuramente fermato e rallentato dall'obbligo di tracciare qualsiasi persona si connetta con quel Wi-Fi. Se io entro in un bar, in un ristorante che mette, in un albergo che mette a disposizione gratuitamente per i clienti il Wi-Fi, mi devono chiedere la carta d'identità. Forse siamo l'unico paese al mondo dove capita tutto ciò. In questo caso come stanno le cose? Cioè, in mancanza di una liberalizzazione completa e totale, con il vostro servizio cosa succede? Credo che diamo un contributo importante a questa liberalizzazione. Innanzitutto l'importanza del Wi-Fi è che utilizza appunto quella porzione di spettro libera, che non appartiene, non è stata data in concessione a nessuno ed è quindi utilizzabile liberamente da ciascuno di noi per collegarci a internet e per coprire quella micromobilità, ma importantissima. In Italia abbiamo, rispetto ad altri paesi, la complicazione della legge Pisano, occorre identificarsi. Quello che noi abbiamo risolto, riteniamo, è questo. Questo servizio è offerto attraverso un numero telefonico, il 55, che l'autorità ha assegnato ai servizi di nomadicità, ed è offerto parallelamente ad una SIM, quindi a un numero telefonico mobile. E allora, se un utente compra una SIM Tiscali, gli viene assegnato un numero 370 per il servizio di telefonia di normale, di normale mobilità, e per quello abbiamo l'obbligo di raccogliere del riconoscimento, di raccogliere come tutti una copia dei documenti. Ma a quel riconoscimento lì è assegnato anche il servizio di nomadicità, e quindi tutte le volte che uno incontra una nuova rete Wi-Fi non deve più essere riconosciuto perché è stato già riconosciuto. Quindi sicuramente questo è un passo in avanti. Bene, avremo occasione di parlare di altri argomenti. Grazie per essere stato con noi, a presto. Grazie mille a voi. E questa era la voce di Renato Soru, che è amministratore delegato di Tiscali. Ci sarà occasione presto per riparlare anche dell'evoluzione della rete internet in Italia. Non dimentichiamo che Tiscali e Soru sono stati una decina di anni fa coloro che hanno un po' iniziato la rivoluzione di internet in Italia, perché avevano lanciato l'internet gratis. Non si pagava più l'abbonamento, ma si pagava solo la telefonata al provider, quando ancora si usava il modem. Quindi sicuramente una rivoluzione per i tempi, estremamente importante per l'evoluzione della rete internet. A proposito di internet, la Fondazione Ugo Bordoni, per conto dell'Agicom, l'autorità per le comunicazioni, avvierà un programma per testare la qualità delle connessioni ad internet in Italia. Si dice spesso che quello che viene pubblicizzato poi non corrisponde alla realtà. Beh, ne abbiamo parlato per capire di che cosa si tratta, per capire quale sarà poi l'attività che verrà fatta. Ne abbiamo parlato con Mario Frullone, che è il direttore delle ricerche della Fondazione Ugo Bordoni. Allora, la cosa è finalizzata ad avere una conoscenza un pochino più accurata delle reali prestazioni che vengono offerte agli utenti. Questa conoscenza ha due vantaggi. Un primo vantaggio è relativo al ruolo dell'autorità, ed è legato alla possibilità di garantire un rapporto trasparente tra operatore e cliente. C'è poi una seconda cosa che è molto importante, soprattutto nel momento in cui si pensa agli investimenti per la banda ultralarga, e questa cosa è una fotografia accurata della reale situazione sul territorio, e quindi noi contiamo di dare una mano a fornire questa fotografia. Senta, ci sono dei parametri che voi utilizzerete? Che ne so, per voi una connessione di qualità minima deve avere una certa capacità in termini di megabits, eccetera, eccetera, o questo sarà oggetto di analisi nei prossime settimane o nei prossimi mesi? Guardi, noi ovviamente ci limiteremo a fare una fotografia di quello che viene fornito in realtà. C'è un'esperienza precedente, quella dell'Ofcom, che diciamo è l'autorità di regolazione britannica, che ha fatto una cosa di questo tipo, anche se un po' più in scala ridotta rispetto a quella che vogliamo fare noi. L'Ofcom ha distribuito circa 1600 misuratori, 1600 case dei britannici, e ha misurato delle prestazioni che sono praticamente sostanzialmente legate alle reali velocità di trasmissione. Per cui cosa si è notato? Che con una velocità media promessa, ovviamente parlo di velocità media promessa di 7,1 megabit al secondo, in effetti la velocità media garantita è di 4,1 megabit al secondo. Ci sono stati alcuni che, diciamo, ovviamente quando parliamo di media ci riferiamo a una statistica sottostante, per cui vuol dire che c'è circa un 10% di queste case che non arrivavano a 2 megabit al secondo, nonostante la promessa fosse di 7, e solo un 20% che superava i 6 megabit al secondo. Fare già questa fotografia, alla quale poi noi aggiungeremo anche valori, diciamo indicazioni sui tempi, diciamo sui ritardi che vengono, che caratterizzano i collegamenti, eccetera, e la continuità del collegamento stesso, darà la possibilità di capire quali sono, anche con la distribuzione geografica, le reali possibilità di introdurre servizi più avanzati. Cosa occorre fare? Per esempio, adesso si parla tantissimo di IPTV, cercare di capire se veramente ci sono le basi per questo tipo di applicazioni, e immaginare degli investimenti, politiche di investimento, che siano proprio calate sul territorio. Quindi, lei ha detto che voi farete una analisi più vasta rispetto all'Ofcom britannico, sì, in che senso? Le spiego qui, questa è una cosa molto interessante. A differenza dell'Ofcom, noi non andremo in 1600 case a misurare, un po' come l'Auditel, no? Che ha un campione, sì, sì, sì, sì, che direttamente nelle case, certo. Eccetera. Noi seguiremo, d'accordo con l'autorità, un altro approccio. Noi metteremo a disposizione di tutti un software certificato scaricabile da chiunque. Sarà un software ovviamente ispezionabile per essere sicuri che non ci siano dentro diciamo delle funzioni sgradite, certo. Ecco. Però chiunque potrà scaricarlo e potrà farlo girare. Ovviamente fornirà i suoi dati e questo, l'esito di questa misura verrà convogliato verso un centro di raccolta nazionale che farà le statistiche. Al tempo stesso, essendo un software certificato, potrà anche essere adoperato dal cliente finale per andare dall'operatore e dire: guarda, che le prestazioni che mi stai dando sono queste, non mi vanno bene e al limite posso rescindere il contratto senza costi aggiuntivi. E così concludiamo questa puntata di 2024. Vi ringraziamo per la vostra attenzione, per averci ascoltato. Grazie anche alle persone che scaricano il file MP3 attraverso il servizio podcast. Trovate tutte le informazioni online su www.radio24.it oppure inviateci una email a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, vi ringrazio per l'attenzione. Vi auguro buon ascolto con i nostri programmi. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre nel pomeriggio di sabato di Radio 24. You are disconnected.